Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, di là dal vetro c'è Mire Locchetti in redazione e Pietro Lacorte in regia. Seguiteci, siamo su Facebook, Nessun Luogo è Lontano, trattino Radio 24, su Twitter, cinguettatemi a Giampaz. Prosegue questa settimana di programmazione speciale di Nessun Luogo Lontano, in cui stiliamo un piccolo glossario, 5 temi chiave, 5 parole, 5 lettere che ci aiuteranno a comprendere meglio il racconto di un intenso mese di agosto dell'attualità internazionale, perché quella non va mai in vacanza, lo sapete. Oggi è venuto il momento della lettera F, F come frontiere. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me frontiere busca... terrestri, frontiere marittime, a volte ci sono muri, a volte ci sono fili spinati, a volte sono naturali le frontiere, come fiumi che dividono paesi. Quelle frontiere lì valgono tantissimo in termini di vite umane, quelle perse, la cronaca ce le restituisce quasi quotidianamente, ai noi, vite umane perse per valicare appunto alla frontiera, ma anche il valore monetario, perché attraversare le frontiere illegalmente costa tantissimi soldi. Tutto questo cercherò di raccontarvi oggi in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, e lo faremo con studiosi, lo faremo con fotografi, con criminologi, per cercare di tracciare il quadro più completo possibile del business e della vita che sta attorno alle frontiere. E fra l'altro mi viene da dire che F come frontiere, ma anche F come fortezza Europa. Questo concetto tornerà anche più avanti nel proseguo di questa trasmissione. Vorrei partire innanzitutto da un accademico, che non è un accademico qualunque, perché è anche molto molto impegnato per i diritti dei migranti. Fulvio Vassallo Paleologo insegna diritto d'asilo all'Università di Palermo e collabora con svariate associazioni, a cui do il mio buongiorno. Buongiorno. Allora, in questa puntata di Nessun Luogo Lontano parliamo di frontiere, F come frontiere. Negli ultimi anni, negli ultimi mesi, si è assistito a una progressiva chiusura dell'Europa e dell'Italia. In realtà spizzica e bocconi l'Italia, ha avuto forse momenti di apertura e momenti di chiusura alternati. In generale, con la lente di ingrandimento, col grandangolo, diciamo così, come possiamo valutare lo stato delle frontiere dell'Europa? È un'Europa, un continente che va progressivamente chiudendosi, che va progressivamente proteggendosi? Ma in realtà chiusura non significa impedire che le persone comunque entrino, significa soltanto alzare il prezzo in vite umane per quelli che cercano di arrivare, sono in gran parte richiedenti asilo, e significa anche rendere assolutamente precarie, al limite dello sfruttamento servile, le condizioni di quelli che riescono ad entrare, in qualche modo poi rimangono con un permesso di soggiorno. Quindi in realtà la fortezza Europa è una fortezza molto permeabile, molto aperta, e le politiche di sbarramento servono soltanto a comprimere i diritti delle persone che riescono a farcela per entrare, anche quando avrebbero diritto all'accoglienza, all'integrazione come richiedenti asilo, e poi sbarra anche la porta in faccia soprattutto a quelli che non ce la fanno, perché i controlli, perché anche la impossibilità di disporre di canali umanitari per l'ingresso protetto. Anche l'ACNUR, le Nazioni Unite recentemente hanno sollecitato per i titolari di status di protezione già riconosciuti in Libia questa possibilità in Europa, però l'Europa e l'Italia non accettano questa proposta, e quindi poi le persone vogliono in mare. Ecco, il professore ha toccato fra l'altro uno dei punti che toccheremo nel proseguo della trasmissione. Più l'Europa si chiude, più si alzano i prezzi, non solo in vite umane, mi lasci dire, ma anche i prezzi il tariffario dei trafficanti di uomini, ma lì poi ci arriveremo. Che cosa non funziona nella legislazione italiana e europea? Qual è la falla più grossa a suo avviso? Ma innanzitutto l'Europa non è stata capace di darsi una normativa uniforme. quindi abbiamo delle normative molto differenziate, malgrado l'apparente veste formale omogenea conferita dalle direttive dell'Unione Europea, però poi le prassi applicate dalle polizie. Basti pensare che in Olanda, in Svezia, per chiedere asilo e ottenere una risposta bastano 3 mesi, si ha diritto ad un'accoglienza dignitosa. In Italia abbiamo casi sull'anno e mezzo in media, con punte di 2 anni per ottenere una risposta sulla richiesta di asilo. Quindi da questo punto di vista ci sarebbe la necessità di una anche attività dell'Unione Europea di controllo su quegli stati che non garantiscano standard omogenei, perché questo poi evidentemente sposta la pressione anche dei richiedenti asilo soltanto su alcuni paesi, e questo è anche testimoniato dal fatto che tante persone che arrivano in Italia dall'Italia se ne vogliono andare. L'altro aspetto pure importante è che l'Europa non ha una politica del lavoro unitaria, e quindi anche da questo punto di vista la precarietà, la flessibilità penalizzano tutti i lavoratori europei e non europei, ma ovviamente poi i migranti sono i più deboli sul mercato del lavoro e più esposti ai processi di precarizzazione, di flessibilità. Questo vale anche per gli irregolari, per tante persone che lavorano alcuni mesi o qualche anno e poi possono essere espulse o respinte senza nessun problema di carattere giuridico, senza che i loro diritti vengano riconosciuti, anche i diritti alla retribuzione già maturata nei confronti dei datori di lavoro. Quindi non è questione di essere pessimisti o ottimisti, è questione di guardare la realtà, di guardare come vanno le cose e di capire che una diversa politica sarebbe possibile. È stata anche in qualche modo adombrata in alcuni documenti dell'Unione Europea negli anni passati, ma se guardiamo le conclusioni dell'ultimo Consiglio Europeo di Bruxelles oppure le conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'Interno e della Giustizia che si è riunito pochi giorni fa a Milano, queste conclusioni sono tutte orientate al problema della difesa dei confini e magari alla possibilità di stipulare accordi con paesi che non garantiscono i diritti umani come la Libia per bloccare lì i migranti e non farli partire verso le coste italiane o verso le coste europee. Sì, fra l'altro creando situazioni paradossali come era al tempo di Gheddafi, no? Di giganteschi imbuti che poi il Reis svuotava aprendo e chiudendo i rubinetti, utilizzando la leva migratoria come una vera e propria leva politica e di ricatto nei confronti del nostro paese. Quando però le chiedevo, secondo lei ci sono delle falle legislative, ad esempio a me veniva in mente il regolamento Dublino 2. Il Dublino 2, sì, ma il Dublino 2 è una conseguenza un po', ecco, non è l'unico problema. Il regolamento Dublino, per spiegarlo, il regolamento che stabilisce che chi fa richiesta di asilo deve seguire una procedura di asilo nel primo paese d'ingresso nell'Unione Europea, quindi in pratica carica i paesi più esterni come la Grecia, l'Italia, la Spagna di un onere maggiore, sì. Per quanto riguarda le procedure che dovrebbero esaminare, perché almeno via mare è chiaro che si entra in questi paesi e poi si tenta di raggiungere i paesi del nord Europa. Lo stesso vale a est, per esempio per la Bulgaria o per la Romania. Ora, qual è il punto? Che poi questi paesi non rispettano in realtà il regolamento Dublino, perché molto spesso non si prelevano le impronte digitali e le persone vengono fatte transitare negli altri paesi dove possono chiedere asilo per la prima volta e avere diritto alla procedura. È quello che ha fatto l'Italia in questi ultimi mesi. Questo ovviamente rende impossibile un confronto serio a livello europeo sulla revisione di questo regolamento. Poi ovviamente la burocrazia, il Ministero dell'Interno, i commissariati di polizia, le prassi applicate complicano molto le cose, perché il regolamento Dublino per esempio permetterebbe il ricongiungimento familiare, quindi se una persona per esempio ha un congiunto, anche uno zio o un fratello già in Olanda, dovrebbe avere diritto legalmente, senza essere esposto a intermediari illegali in Italia, a raggiungere il congiunto in Olanda o in Belgio. Però i tempi sono talmente lunghi per l'esame delle diverse procedure che rispetto a una possibilità di attesa di un anno e mezzo, le persone comunque cercano di raggiungere la prima stazione possibile per poi andare verso Milano e poi andare verso altri paesi europei. Sì. Quindi se quelle possibilità modeste, ma che pure esistono, fossero sorrette da una burocrazia meno farraginosa, meno discrezionale e soprattutto meno lenta, probabilmente gli scafisti di terra avrebbero meno clienti. Sì. Professore, quando ascoltiamo la litania dei politici italiani che dicono l'Europa non ci aiuta abbastanza, io ho un'impressione che sia un po', insomma,

e a finanziare missioni di contrasto dell'immigrazione irregolare, si desse la possibilità a questi 17.000 siriani che vengono dall'inferno, che vediamo tutti i giorni anche con video abbastanza agghiaccianti diffusi nella rete, ebbene queste persone avrebbero diritto ad arrivare tranquillamente in un qualunque paese europeo, e 17.000 persone che entrano in Europa non credo che sarebbero un problema per le popolazioni europee assolutamente, ma anche se fossero 170.000 su un territorio che contiene più di 550 milioni di abitanti, non dovrebbe assolutamente essere un problema, quando tra l'altro i paesi europei concedono milioni di visti d'ingresso all'anno per immigrati che molto spesso poi rimangono nel territorio svolgendo attività lavorativa in nero, quindi certo. Diciamo, questo discorso di difesa delle frontiere e dei confini si rivolge verso i più deboli, verso donne, verso bambini, verso richiedenti asilo, mentre invece chi normalmente si muove per lavoro comunque entra con un visto temporaneo anche per pochi giorni e poi rimane dopo la scadenza del visto, basta pagare, ma chi entra per lavoro talvolta ha anche i mezzi o può farsi prestare i mezzi per entrare con un visto d'ingresso, e quindi il problema della presenza di immigrati irregolari in Europa si lega alla gestione del mercato del lavoro, lo sfruttamento che conviene a tanti degli immigrati che entrano, e non è affatto da confondere con l'aumento, anche se questo aumento fosse esponenziale, di coloro che vengono a chiedere protezione, che sono un numero molto più ridotto rispetto alle persone che comunque varcano le frontiere europee e poi dopo un breve periodo cadono in una condizione di irregolarità, sì, pur continuando a lavorare in nero presso una famiglia, presso un albergo, presso un cantiere edile, presso un imprenditore agricolo. Chiarissimo. L'ultimissima domanda, professore, riguarda invece il racconto mediatico delle frontiere e dell'immigrazione. Mi sembra molto spesso appiattito su slogan con titoli sempre uguali e che non restituisce la complessità del fenomeno. Come giudica il panorama mediatico che racconta l'immigrazione? Purtroppo qua è anche il problema della politica, perché in molti paesi, l'Italia non fa eccezione, su questa questione dell'immigrazione, spesso confondendo anche l'aumento, il raddoppio dei richiedenti asilo come un'invasione, quando non è un'invasione, perché come dicevo prima l'Italia concede ogni anno più di 600.000 visti d'ingresso, quindi anche se coloro che vengono a chiedere asilo dovessero passare da 50 a 100.000, come probabilmente avverrà quest'anno, dico, siamo ad un aumento molto modesto. L'informazione purtroppo accentua spesso questa immagine dell'invasione, quando invece abbiamo dati incontestabili dell'Istat e di altri istituti di ricerca che confermano come il saldo effettivo poi della immigrazione e della emigrazione dall'Italia è un saldo che per la prima volta vede un maggior numero di persone, italiani e stranieri, che lasciano l'Italia rispetto agli immigrati comunitari e non comunitari che entrano nel nostro paese. Quindi il nostro paese va verso una prospettiva di impoverimento se non è capace di dotarsi di una politica dell'immigrazione capace di impiegare legalmente nel mercato del lavoro delle persone, dando possibilità di integrazione, non invece schiacciandole sul lavoro clandestino e sullo sfruttamento, cosa che peraltro poi ha delle conseguenze a catena anche per i lavoratori autoctoni. Grazie mille, professor Fulvio Vassallo Paleologo, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. E questo è il quadro giuridico e sociale che ci ha restituito il professor Vassallo Paleologo da Palermo. E intanto mi preme sottolineare che ha smontato e ha sfatato anche un po' di luoghi comuni sull'immigrazione. Intanto quel bilancio che non è più inattivo, per cui quando si grida l'invasione, insomma, bisognerebbe moderare i termini, perché è una parola che non spiega, non restituisce quella che è in effetti la realtà del fenomeno immigrazione. E poi mi permetto di aggiungere l'immigrazione, come spesso ripeto da questo microfono, è uno dei temi più strumentalizzabili e strumentalizzati e che viene affrontato in maniera ideologica e spesso strumentale. Però in questa puntata, in Nessun Luogo Lontano, parliamo di frontiere e per ogni storia di frontiera, per ogni storia di passaggio di quel maledetto, per molti Mediterraneo, o di quel fiume Evros, o delle montagne in Bulgaria, o del Carso, insomma per ogni frontiera ci sono storie di persone, come quella di Rael. People here get all types of asylum protection. And this Yes. And they found themselves abandoned at some point. They were unable to enter the society. They were unable to communicate with people. E questa è la voce di Rael, che è una storia che è stata raccolta da Paolo Martino, regista, a cui do il mio buongiorno. Paolo. Ciao a voi. Tu hai raccolto la storia di Rael Ali Mohammed ed è una storia di immigrazione, una storia come tante, una storia fatta anche di frontiere, di passaggio frontiere. Raccontaci meglio la storia di Rael e che cosa sono state le frontiere per lui, non solo muri, recinti, fiumi e mari, no? Come abbiamo detto all'inizio, ma anche regolamenti e leggi. Sì, esatto, la storia di Rael è una storia che parte da lontano, nonostante sia appunto ancora molto giovane. Diciamo che affonda le radici in un evento storico che è rimasto tristemente noto, quale il bombardamento di Halabja del 1988, nel quale appunto Saddam Hussein, come sappiamo, bombardò con un agente chimico una zona di quel paese, del Kurdistan. In fuga da quell'episodio, Rael e la sua famiglia si ripararono in Siria, che però dopo pochi anni gli ha riservato lo stesso destino. Per cui Rael nel 2009 si mette nuovamente in marcia attraverso Turchia e Grecia, per arrivare appunto in Europa, per trovare la salvezza, la speranza, quella pace che in Medio Oriente non ha avuto. Evidentemente però, come appunto anticipavi, queste frontiere che lui attraversa sono evidentemente molto pericolose, sia da un punto di vista geografico, quindi dei pericoli che si rappresentano per la sua incolumità, ma anche dal punto di vista giuridico. Ed arriviamo appunto al tema di terra di transito, che è quello del regolamento di Dublino, di cui avete già parlato diciamo in maniera molto esaustiva. Ecco, Terra di Transito è il titolo del documentario girato da Paolo Martino con Rael, produzione a buon diritto in collaborazione con l'Istituto Luce. Un documentario che da una storia individuale, da una faccia, da una voce, che è quella che avete sentito, racconta poi però un mondo e un limbo, che è quello a cui viene condannato Rael. Perché il tuo protagonista, Paolo, sbatte il muso proprio lì, più che sulle frontiere, che è vero, perché un viaggio durato anni attraverso il Medio Oriente, attraverso l'Italia e l'Europa, però alla fine diciamo che il vero ostacolo è quel dannato, tra virgolette, dal suo punto di vista, no? Regolamento Dublino 2, che lo costringe a cosa? A espletare le richieste di asilo politico nel primo paese europeo che viene toccato. Esatto, proprio così, confondendo continuamente i piani, per cui lo sforzo che lui, come i suoi compagni di viaggio, fa per arrivare in Europa, e evidentemente la sua destinazione non è l'Italia ma la Svezia, dove appunto dal 1988 vive una parte della sua famiglia che trovò immediatamente riparo in quel paese e che lui appunto tenta di raggiungere in questi anni, è costretto però a un continuo ritorno in Italia. Per cui, perché questo? Perché l'Italia è il paese che lo ha fotosegnalato, è il paese nel quale lui ha lasciato le impronte digitali e che è ormai competente per la sua domanda d'asilo. È ovvio che si mischiano i piani, perché evidentemente il viaggio di Rael verso l'Italia è un viaggio che io tra l'altro ho raccontato, perché l'ho conosciuto proprio in Grecia alcuni anni fa. Sì. E la vita in Grecia per i migranti, per i richiedenti asilo che cercano di arrivare in Italia è un inferno. Si svolge appunto tra boschi, discariche, nelle città di Igoumenitsa e di Patrazzo, in attesa di infilarsi sotto i camion che poi arrivano in Italia sui traghetti che partono da quelle città. Sì. Ti interrompo, Paolo, perché insomma, dalle tue parole intanto emerge che cosa? Che dietro l'immigrazione, che spesso si riduce a un bollettino di morti, di sbarchi, di naufragi, ci stanno persone, e quindi questo credo che sia il primo punto su cui ragionare, da tenere sempre presente. E la seconda cosa, che forse intriga più me, che racconto storie come te e con mezzi diversi, è che alla fine tante volte un racconto, una storia come quella che hai fatto tu, nasce da un incontro. Nessun luogo è lontano. Storie di frontiera e storie di frontiere nella puntata di oggi di Nessun luogo è lontano, come quella di Rael, raccontata da Paolo Martino. Ma come dicevo prima della pausa, a volte per chi fa lo storyteller, per chi racconta storie, davanti a un microfono radio o fa foto o fa video, e molto spesso l'incontro col proprio protagonista è una magia, è un'alchimia, no? A un certo punto tu conosci, tra i tanti migranti che hai seguito, Paolo, a un certo punto riconosci in Rael qualcosa che ti fa dire: voglio raccontare la sua storia, perché la sua storia è universale, è emblematica. Cioè, io con la storia di Rael veramente restituisco al pubblico cos'è l'Europa, cos'è la Dublino 2, cosa vuol dire scappare dal per essere un curdo e scappare per anni attraverso il Medio Oriente e l'Italia stessa. Il tuo incontro com'è stato? Sai, non potrei esprimerlo con parole migliori. Il termine alchimia forse è quello che lo descrive meglio, nel senso che evidentemente quell'anno io viaggiai incontrando centinaia, se non migliaia, di migranti dalla frontiera tra Iran e Turchia fino all'Italia, proprio sulle tracce appunto dei rifugiati che si concentrano specialmente in quel, era l'estate del 2009, arrivato a Igoumenitsa e quindi ormai prossimo alla meta, prossimo all'Italia, mancava soltanto appunto di imbarcarsi sul traghetto che arrivava a Ancona. Ho conosciuto Rael e questo, evidentemente con questa persona è scattato qualcosa, perché io mi sono potuto riconoscere nella sua storia, come appunto emerge dal documentario. Lui ha avuto una storia molto particolare, ma si è saputo sempre in qualche modo ritagliare un profilo, per cui innanzitutto parla un inglese quasi accademico e ha un'esperienza di vita molto, molto complessa, e il tentativo quella sera a Igoumenitsa fu di imbarcarci insieme clandestinamente su una delle navi che appunto portano in Italia. E di fronte al fallimento di questa cosa, ovviamente è rimasto sempre, come dire, un forte contatto, che poi per più di un anno lui è rimasto in Grecia tentando di imbarcarsi per l'Italia. Poi evidentemente quando ce l'ha fatta ed è arrivato qui è stato automatico l'istinto di continuare a raccontare insieme. Ecco, e fra l'altro poi è una collaborazione no, che potrà avere i suoi frutti, perché alla fine mi sembra un sodalizio che però non voglio anticipare troppo, giusto Paolo? Si può dire che lavorerete insieme? Sì, dai. Allora diciamolo. Allora questa alchimia poi insomma porterà ad altre produzioni, ma poi ce ne parlerai chissà in futuro, Paolo. Però l'ultima domanda è questa: Rael non ha ancora visto i suoi familiari in Svezia o sì? Diciamo che noi siamo riusciti attraverso diciamo un escamotage ad arrivare fino in Svezia. Evidentemente il problema non è spostarsi per delle visite all'interno del continente europeo, ma è il problema serio per i richiedenti asilo, per i cosiddetti dublinati, è quello di restare, quindi di ottenere la residenza in questi paesi e quindi avere una vita normale, un lavoro, un reddito, mantenersi, essere utili alla società e a se stessi. Questo non è assolutamente possibile a causa di Dublino 2. Quindi con Rael siamo andati a trovare la sua famiglia, abbiamo creato evidentemente un momento molto molto forte, e che sì, è uno forse dei temi portanti di tutto il documentario, e però appunto come dire, il dramma è quello poi dell'addio. Lui è costretto a tornare in Italia, dove vive assolutamente da solo, senza contatti familiari e soltanto facendo leva sulle proprie forze. Grazie Paolo Martino, il suo Terra di Transito, che racconta la storia di Rael che avete appena sentito. Buona giornata e buon lavoro, Paolo. Grazie a voi. Nelle storie di frontiere e di frontiera che raccontiamo quest'oggi, Nessun Luogo Lontano, un ruolo importantissimo lo gioca chi guadagna sulle frontiere. Quei pochi metri, quei centimetri su cui viene eretto un muro, viene fissato un filo spinato, quei pochi metri magari tracciati dal corso di un fiume o quelle tanti chilometri segnati da un mare, sono sì un muro, sono sì qualcosa che i migranti cercano di valicare. Migranti a volte sono migranti economici, oppure come avete sentito sono richiedenti asilo. Ebbene, quella frontiera lì, quei pochi centimetri, quel passo a volte vale migliaia e migliaia di euro o di dollari. E per mettere a fuoco questo aspetto, che forse, se volete, insomma, è quello meno indagato, meno conosciuto, do il mio benvenuto, la mia buona giornata a Andrea Di Nicola, criminologo dell'Università di Trento. Andrea, buona giornata. Grazie, ciao Giampaolo. Allora, è inutile che fingiamo, insomma, che ci diamo del lei, facciamo salamalecchi inutili, perché io e Andrea ci conosciamo bene e qualche ascoltatore di Radio 24 se lo ricorderà, insomma, chi mi segue da qualche anno, perché mi aiutò a confezionare una serie di reportage sull'immigrazione e poi da lì nacque un sodalizio. Insieme abbiamo scritto un libro, Confessioni di un trafficante di uomini. È vero, magari non suona proprio elegantissimo che un conduttore dica che ha scritto un libro, però perdonatemi per questa volta, gentili ascoltatori. Abbiamo scritto questo libro, Andrea Di Nicola, perché volevamo, fra le altre cose, parlare dell'economia che sta dietro alle frontiere, no? Cioè capire quanto vale passare quel metro, passare quel mare, passare quel fiume, passare quel muro. Aiutaci a capire meglio. L'economia è il business che sta dietro al passaggio delle frontiere. Beh, le frontiere sono un'opportunità per i criminali che lavorano sulle migrazioni clandestine. Sono risorse, soldi, tanti soldi, e questi soldi girano in nero. Le organizzazioni criminali lo sanno e chiedono, vendono sogni a persone che spesso sono disperate, e questi sogni valgono a seconda delle distanze da 1000 fino a 15-20 mila dollari, e se moltiplichiamo queste cifre per le migliaia e migliaia di persone, migranti che si muovono e chiedono i servizi di questi trafficanti, capiamo che si tratta di un'economia sommersa, spesso drenata da paesi che sono in via di sviluppo, che hanno già molti problemi. Allora, Andrea, già che hai citato il tariffario di queste migrazioni irregolari, andiamo a sentire un po' di numeri. Sono quei numeri, gentili ascoltatrici e ascoltatori, che fanno sì che il business di cui stiamo parlando oscilli dai 3 ai 10 miliardi di dollari l'anno. Afghanistan, Regno Unito, 25.000 dollari. Asia e Europa, tra i 3.000 e i 10.000. Asia, Stati Uniti, 25.000 dollari circa. Cina, Stati Uniti, 40.000-70.000 dollari. Cina, Regno Unito, 41.800 dollari. Cina, Italia, 15.000 dollari. Cuba, Stati Uniti, 10.000. Iraq, Regno Unito, 10.500 dollari. Iraq, Germania, tra i 7.000 e i 14.000. Messico, Stati Uniti, 1.000-4.000 dollari. Nord Africa, coste, Italia, Lampedusa, Sicilia, Calabria, estremamente variabile dai 1.500 ai 3.000 dollari. Turchia, Italia, 2.500-5.000. Vietnam, Europa, 28.500 dollari. Allora, questo è il tariffario di questa agenzia di viaggi criminale, è quella che ti dice: io sono in un villaggio dei dintorni di Islamabad, voglio andare a New York, ebbene c'è qualcuno che ti ci porta, una rete fatta di tanti collaboratori, di trafficanti appunto, di cui però lo scafista è solamente l'ultimo anello, è quello che noi vediamo, è quello che i giornali e la cronaca ci raccontano, ma appunto nasconde tutto il resto. Quando ci siamo incontrati anni fa, Andrea, mi colpì molto il tratteggio che tu facesti del trafficante di uomini, perché intanto io me lo immaginavo un po' un disperato, uno che vive la giornata di espedienti eccetera, e tu invece mi ricordo che introducesti la figura dell'imprenditore, cioè di uno che organizza fattori di produzione. Spiegaci meglio questo concetto che trovo molto intrigante. Beh, non si tratta di sprovveduti. Quello che noi vediamo su questi battelli, sulle navi, quello che arriva nel meridione, sulle nostre coste, è un po' il pusher, lo scafista è l'ultimo anello. Dietro ci sta organizzazione, ci sta complessità, ci sta anche professionalità, ovviamente criminale. Quindi parlare di imprenditoria, esatto, quando si discute con questi e si parla con questi trafficanti, loro parlano di clienti, loro si vendono e parlano di se stessi come imprenditori, come uomini di business che offrono un servizio, ed è proprio questo che fanno queste organizzazioni criminali. In fondo usano diversi fattori di produzione, vendono un servizio, si vendono sul mercato, hanno, come abbiamo appena sentito, un tariffario, e offrono anche servizi differenti a seconda delle tasche dei propri clienti, di quello che le persone si possono permettere. Alcuni di questi grandi criminali in fondo vendono dei servizi particolari, ad esempio ti porto a destinazione e mi paghi soltanto una volta arrivato, e in fondo è una strategia di marketing vera e propria. A proposito di marketing, un buon marketing manager è quello che fa il suo business plan, che organizza le spese, insomma, e vede dove sarà il punto di pareggio, eccetera, eccetera. Parlando di spese, a inizio trasmissione il professor Vassallo ricordava come Frontex spenda dagli 80 ai 100 milioni di euro l'anno. per il monitoraggio delle frontiere. Quando però di fronte abbiamo ad esempio un trafficante, che è uno di quelli che abbiamo tratteggiato insieme nel libro, Muammar Kucuk, che è uno di quelli più grossi, il cui fatturato è, Andrea? 6-7 milioni di dollari ogni anno. Ovviamente fatturato si fa per dire, perché tutto è nero, tutto è esentasse. Dicono che sia stato in grado di comprarsi un'azienda farmaceutica e che si sia acquistato nel tempo 200 appartamenti lungo le coste dell'Anatolia, quindi stiamo parlando di enormi ingenti risorse che poi servono anche ad alimentare altri traffici illeciti. A fronte di queste cifre, quegli 80-100 milioni di euro di fronte sono veramente come un bicchierino di acqua rispetto ad un oceano. Sì, perché dobbiamo ricordare che i trafficanti, le reti di trafficanti sono tante, perché le rotte sono tante, non c'è solo Lampedusa, non c'è solo Pozzallo, con tutte le specificità del momento in cui Mare Nostrum si è messa in acqua, e insomma è un momento particolare, storico nel racconto dell'immigrazione, ma ci sono le rotte turche, quella balcanica, c'è quella che arriva a Fiumicino e a Malpensa con i passaporti falsi, perfettamente contraffatti, eccetera eccetera. Allora Andrea, già che stiamo parlando di soldi, di una montagna di soldi, io vorrei che raccontassi alle ascoltatrici e agli ascoltatori come vengono mossi questi soldi, come si passano tra le frontiere milioni e milioni di euro nel mondo senza che anche il più bravo magistrato riesca a arraffare e trovare quindi le prove per incastrare i grossi trafficanti. Tutto questo però dopo una piccola pausa. Andrea, stai con noi. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questo è sempre Nessun Luogo Lontano, io sono Giampaolo Musumeci e in quest'ora oggi il mondo è un pochino più piccolo, anche perché stiamo parlando di frontiere e soprattutto del valore delle frontiere, con Andrea Di Nicola, che è criminologo dell'Università di Trento. Prima di lasciarti però Andrea, volevo che ci raccontassi ai nostri ascoltatori, già che abbiamo parlato di tanti soldi, di una marea di soldi, uno dei metodi, in estrema sintesi, con cui i grossi trafficanti riescono a far circolare milioni di euro senza che vi sia alcuna traccia, senza che anche il più bravo dei magistrati, mettendoci il naso, riesca a trovare traccia di questi milioni di euro di pagamenti. Eh sì, perché questi soldi scompaiono, perché non passano attraverso i canali finanziari regolari. Questo metodo a cui ti stai riferendo, Giampaolo, è il sistema Avala, che è un sistema che si basa sulla fiducia. Voi ve la dovete immaginare come una grande rete dove i nodi sono delle banche informali, possono essere dei gioiellieri, dei venditori di tappeti, insomma nodi che hanno disponibilità finanziaria. Io come migrante o come trafficante posso trasferire da Roma, di Islamabad, denaro, ma senza trasferirlo effettivamente. Questi nodi, che si chiamano Avaladar, lavorano sulla base della fiducia. Quindi posso essere a Roma e trasferire $5,000 a Kabul, ad esempio, soltanto sulla base di una password, di una parola. Il mio parente andrà dal gioielliere di Kabul, darà questa parola e quel gioielliere gli darà $5,000. Questo può essere da Roma verso Kabul o viceversa, o in tutti i paesi e in tutte le città dove ci sono questi nodi informali. Passa il denaro, non viene però trasferito fisicamente, ma spostato sulla fiducia. A quel punto il gioielliere di Kabul ha un credito rispetto al gioielliere di Roma, o al nodo della rete di Roma, ma in un modo o nell'altro si compenseranno, perché fanno sempre affari tra di loro. In questo modo si riesce a trasferire denaro senza che il denaro venga trasferito fisicamente, e quindi a muoverlo a cavallo delle frontiere. Queste reti sono nate anche per mandare a casa le rimesse dei migranti, quindi hanno anche un obiettivo nobile, se vogliamo, ma a lungo andare i criminali, che sono intelligenti, hanno capito che possono essere sfruttate e lo hanno cominciato a fare anche a scopi di trasferimento di denaro per il terrorismo, e piano piano poi i criminali hanno anche acquisito il controllo di alcune di queste reti informali di pagamento. Allora, quindi il motivo, scusa Giampaolo, l'ultima cosa, questo fa sì che i magistrati, come dicevi, non riescano, anche quando mettono in galera i trafficanti, cosa che accade quelli grandi di rado, non riescano mai a trovare i soldi. F come frontiere, S come soldi, insomma queste due lettere mai state così vicine. Grazie Andrea Di Nicola, che ha scritto con me Confessioni di un trafficante di uomini, che studia la materia da anni. Buona giornata, buon lavoro. Grazie Giampaolo. dei luoghi caldi quando si parla di immigrazione, lo è stato soprattutto in passato quando non c'era l'emergenza di Lampedusa, era la rotta greca, erano i porti greci, l'avete sentito anche dal racconto di Paolo Martino, il regista documentarista che lì a Igoumenitsa ha incontrato il soggetto, il protagonista poi del suo documentario, della sua storia, del suo racconto. E se volete imbarcarsi da lì, da Igoumenitsa, da Patrasso, vuol dire legare la propria vita a un camion. Quando dico legare la propria vita intendo letteralmente legare la propria vita, perché i più attenti lettori, magari chi compra anche i giornali locali, no, pugliesi o marchigiani, si ricorderà ogni tanto di notizie tragiche che suonavano più o meno così: immigrato si sfracella nell'autostrada perché sono ceduti i cavi a cui si era legato sotto al camion. Il camion era un caronte, era un novello caronte, era quello che ti permetteva, ti legavi, entravi magari di nascosto nella cella frigorifera, il camion sale sul traghetto dai porti greci, approda poi a Bari, ad esempio Ancona, e lì insomma il migrante ce l'ha fatta, ha passato la frontiera. La storia di un camion, una storia un po' diversa, ce la racconta Alessandro Penso, fotografo e documentarista, a cui do il mio benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Alessandro. Salve. Allora Alessandro, tu sei fotografo, sei documentarista, hai ideato questo progetto, ti sei inventato una mostra itinerante sull'immigrazione che è andata da Bari, è andata fino a Bruxelles e poi è tornata. Raccontaci meglio questo camion. Sì, è un'idea nata qualche anno fa, è realizzata quest'anno insieme a Cortona on the Move, dei ragazzi che organizzano ogni anno appunto a Cortona un festival di fotografia. Era l'idea di portare le storie di questi ragazzi bloccati in Grecia dalle leggi europee che prima di me sono state spiegate e quindi di portare dove loro non possono arrivare e dove vorrebbero andare le loro storie con questo mezzo che è il mezzo che, come hai spiegato, rappresenta un mezzo per fuggire, per continuare il loro viaggio della speranza, e noi simbolicamente l'abbiamo riempito di fotografie e siamo andati in direzione Bruxelles. Ecco, stiamo sul tecnico, se sei d'accordo Alessandro. Quanti scatti raccoglie il camion? Sono bianco e nero, colore? Diamo due dritte un po' più fotografiche, diciamo, va? Ok. Allora, il camion all'interno 24 foto a colori, 70%, raccontano la vita quotidiana di due gruppi di ragazzi, un gruppo proveniente dall'Afghanistan e un gruppo proveniente dal Marocco. Sono tutti e due i gruppi sono composti da ragazzi molto giovani, da un'età che va dai 14 a 20 anni, dei ragazzi che stanno spendendo il loro momento migliore della propria vita alla ricerca di un'accoglienza felice, alla ricerca di un futuro migliore. Ecco, hai fatto bene a ricordare che c'è un gruppo di marocchini, perché non è un caso isolato. Io abbastanza recentemente ho lavorato in Grecia e mi è capitato di trovare ad esempio algerini che passavano il confine tra la Turchia e la Grecia. Noi non dobbiamo dobbiamo pensare che le rotte dell'immigrazione mutano continuamente e che i trafficanti e i migranti lavorano proprio sulle alternative, cioè se si chiude una finestra se ne aprirà un'altra, magari più lontana, magari non immediata. E a titolo di esempio cito il fatto che sempre lì sul fiume Evros, ad esempio 2 anni fa o poco meno, incontrai dei dominicani, la qualcosa insomma mi stupì enormemente, come potete immaginare, perché da Santo Domingo alla Grecia, ebbene, per loro era conveniente, era più facile tentare il passaggio da quella parte. Anche adesso è stata coinvolta la Bulgaria proprio per via della chiusura della Grecia, dei controlli sempre maggiori, la costruzione del muro. La Bulgaria ha visto nel mese di novembre arrivare 11.000 persone, quando nella sua storia penso che aveva toccato il numero di massimo 3.000, tra i 3.000 e 4.000 in un anno di migranti e richiedenti d'asilo. Quindi le rotte di immigrazione cambiano continuamente, si adeguano a seconda della chiusura dei governi o delle misure di sicurezza. Hai fatto bene Alessandro a ricordare l'apertura di quella rotta bulgara, di cui io ebbi sentore, era il 2012 quando lavoravo proprio sull'Evros, e si parlava della costruzione di questo muro, anche se in realtà quel muro lì non andava a frenare, era più un simbolo, perché poi passavano dal fiume Evros più che dalla zona minata, no? Però già si vociferava, già mi ricordo la polizia greca iniziava a monitorare il passaggio più a nord. Quello che volevo sottolineare, è, approfittando di questo tuo spunto, è che chiaramente la rotta attraverso il nord, attraverso le montagne bulgare, che d'inverno sono freddissime, si raggiungono temperature incredibili, vuol dire una rotta più lunga e vuol dire che il trafficante di uomini o la rete dei trafficanti di uomini guadagnerà di più. Cioè noi ogni volta che chiudiamo una rotta dell'immigrazione, il migrante non è che smette di provarci, semplicemente camminerà per più chilometri, si prenderà più rischi e spenderà più soldi. Assolutamente, ma poi ecco una cosa che passa abbastanza inosservata e si fa poca informazione è che spesso non pagano soltanto per arrivare in Grecia, in Italia, in Spagna, che rappresentano adesso in questo caso la Bulgaria, che rappresentano i paesi confine, le porte per l'Europa, ma alcune persone, per esperienza dalle storie che ho sentito come testimonianza, posso dire che hanno pagato anche 25.000 euro per arrivare in Norvegia direttamente dalla Turchia o dalla Grecia stessa, quindi c'è un traffico e vengono spesi tantissimi soldi nella speranza di raggiungere quelli che vengono considerati i paesi con un'attenzione migliore o che offrono uno start-up per questi ragazzi o queste persone che appunto scappano per i più disperati motivi dal proprio paese o semplicemente per avere la possibilità di avere una nuova vita. Grazie, grazie Alessandro Penso per la sua testimonianza. roadtobruxelles.com/it. Alessandro ha fondato On Off Picture, un'agenzia collettiva, magari ce la racconterai in una delle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Buona giornata, buon lavoro. Beh, posso però dire che insomma il tuo camion, la tua esperienza, la tua avventura europea quantomeno è servita a sensibilizzare. Grazie, buona giornata. Grazie. E allora siamo in chiusura, non mi resta che ringraziare Mire Lucchetti che ha scritto con me questa puntata, Pietro Lacorte che le ha dato la musica e il ritmo giusto, voi per essere stati all'ascolto, seguiteci su Facebook, Nessun Luogo Lontano, Radio 24, Twitter, sono Giampazza, intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.